Dov'era il codice stradale? Il ragazzo stava guidando da un'ora allegramente la macchina. Due ragazzi e due ragazze, dai 18 ai 20 anni, stavano tornando da una discoteca condotti da questo giovane della loro età, che aveva bevuto un pochino troppo. Non era letteralmente ubriaco, ma i suoi arti in una curva un po'. Decisa, non risposero subito ai suoi comandi e non riuscì a controllare il volante come avrebbe voluto. Un attimo di panico composto da una strana allegria e la macchina esce fuori strada. Sbanda violentemente ai 130 all'ora contro un muretto, costruito per evitare che la collina franasse. La macchina rimbalza sulla strada e l'impatto pone miseramente fine all'esistenza di tre dei giovani che avevano cercato gioia e piaceri in una lecita serata. Un camionista, che si era alzato alle 4 del mattino e che ora tutto contento tornava a casa a sera inoltrata, era un poco assonnato. Fra un'ora, pensava fra sé, sarò a casa. Non mi conviene fermarmi, perché, dopo tutto, sono abituato ad avere sensi di sonnolenza. Non si rende conto subito della macchina rivolta sulla strada, frena, ma non può evitare di schiacciare ulteriormente l'automobile. Forti cigolii di lamiera squarciano il buio della notte, un piccolo incendio divampa all'improvviso. In un'altra vettura, una mamma, con due bambini legati nei sedili posteriori con la cintura. Aveva fretta, perché se i bambini erano stanchi, lei non lo era di meno, e per questo stava a ridosso dell'articolato, che le faceva anche da guida. Non c'era la distanza di sicurezza, è vero, ma, come lei diceva, certe volte non bisogna essere fiscali. Vede l'impatto delle lamiere, frena, ma la velocità non le permette di evitare l'inevitabile. Madre e figli muoiono. A seguito di questa, su di un'altra auto viaggiava un giovane con la fidanzata, che finalmente aveva trovato dopo tanto tempo. Era preso letteralmente dalla conversazione riguardante dove sarebbero andati il giorno dopo, e per mostrare il suo amore giovanile aveva messo la mano destra sulle spalle. Era un pochino distratto e per questo, quando si rese conto di ciò che stava succedendo sull'asfalto, mise le due mani sul volante, ma il tempo impiegato a compiere tale gesto fu eterno. Inefficace, per evitare la macchina guidata dalla mamma con i bambini. Lui morì sul colpo, mentre la ragazza svenne. Seguivano poi altre macchine di lusso, a una velocità superiore ai 150 all'ora. Perché su queste comodissime vetture, la velocità massima consentita di 130, dà l'impressione di andare a piedi. Il groviglio di lamiere aumentava mentre il piccolo incendio causato dal primo incidente esplodeva, sia perché nessuno poteva spegnerlo, sia perché era alimentato dalla benzina sparsa a causa della catena di tamponamenti. In questo modo trovarono la morte tutti coloro che non erano già deceduti nei diversi impatti. Alcuni, nella loro consapevolezza mediante urla, mentre altri, anche se soffrivano, non potevano invocare aiuto, anche se inutilmente, con le disperate urla. Purtroppo, sono episodi della strada non rari. Mentre molti rimangono senza parole allibiti o esterrefatti, io mi chiedo, ma dov'era il codice della strada? Non c'è anch'io, è un codice della strada per regolare il traffico? Perché possono succedere queste cose? Se succedono queste cose, significa che non c'è una buona regolamentazione del traffico, non è vero? Se succedono certi incidenti, non è? Forse perché chi ha inventato il codice della strada non ha dettato delle giuste regole? Abbiamo un governo sbagliato. A queste domande, sensate o insensate, molti rimangono sbigottiti. E mi guardano un po', dico agnesco. Che c'entra il codice della strada? Mi rispondono. Non puoi accusare le regole che sono state date per viaggiare sicuri e bene, ma devi solo accusare chi guida in stato di ubriachezza, che viola le regole che vietano di guidare in stato di sonnolenza, chi non mantiene le misure di sicurezza e chi guida senza le giuste attenzioni. Quando guidi una macchina, non sei nel tuo salotto, riposte più che sensate, ma che mi lasciano confuso quando si entra nel campo della fede. Mentre nelle cose della vita si è anche ragionevoli e obiettivi, nel campo della fede, in genere si fanno dei ragionamenti insensati anche dal punto logico. Bisogna imparare, il che vuol dire che non lo sia per natura, ad essere intellettualmente onesti. Poiché i bambini, e forse i vecchi, toccano i nostri profondi sentimenti umani, ci si chiede perché bambini innocenti soffrono. Perché Dio permette che tanti bambini, forse troppi, siano brutalmente uccisi o violentati. Dove? E Dio? Ci si chiede. Se ci fosse un Dio, dicono alcuni, certe cose non succederebbero, non è vero? Se Dio cice, e permette questo, allora è un Dio cattivo, disumano. Non è forse così? Ho sentito porre queste domande anche ultimamente, nel corso di un programma televisivo da una famosissimo intellettuale ateo, che ha sempre qualcosa a dire su tutto. Proprio perché ragiona in modo abbastanza convincente, è ascoltato e seguito. Chi non è abituato a reggere a certe argomentazioni, in genere, anche se è credente, non ha nessuna risposta, e a volte purtroppo sente scricchiolare sotto i suoi piedi la pietra angolare sulla quale poggia la sua fede. Cosa rispondere di fronte a tanta ingiustizia? Cosa replicare di fronte all'oppressione diretta ai più deboli come i bambini, vecchi e donne? Quando i giornali e la televisione hanno raccontato, con profondo dolore e sgomento, l'orrenda notizia di quella ragazza che è stata sistematicamente violentata per anni in un locale sottoterra da un uomo, tra l'altro sposato, il quale la teneva segregata senza permetterle di vedere la luce e dal quale ebbe anche dei figli, ci si domanda, non poteva Dio evitarlo? Almeno non poteva metterlo a conoscenza molto prima? Dobbiamo essere onesti. Chissà quali spregevoli cose stanno succedendo nel mondo, anche verso i cristiani, i quali, da quando esistono, sono sempre stati seviziati, torturati e uccisi. Torniamo all'episodio del codice della strada. È innegabile che nessuno di noi pensi che il codice della strada sia sbagliato. Neppure nessuno pensa che chi ha inventato le regole del traffico abbia creato delle leggi ingiuste. Tutti siamo d'accordo, chi non lo è fuori punto strada, che le leggi stradali sono per il nostro bene e solo chi le disubbidisce ne porta delle tristi conseguenze. Per incoraggiare le persone a osservare delle regole giuste coniate per il loro bene, il governo ha stabilito delle persone per regolare il traffico e per multare chi non si comporta come si conviene. Una cosa che sfugge a molti o che molti non vogliono sapere è che il codice della strada è molto simile al codice della vita. Per codice della vita intendo tutte le leggi esistenti nel creato. C è la legge di gravità, una legge che non perdona. Se cado nel vuoto, sia che cada volontariamente per togliermi la vita, sia che vi cada per errore, finirò a terra. Le leggi della natura non guardano le mie intenzioni. Se io lancio un sasso e questo è diretto all'occhio di una persona, gli farà male, anche se l'ho lanciato involontariamente. Se cammino mentre piove, mi bagnerò, anche se solo per distrazione non ho portato con me l'ombrello. Le leggi della creazione sono inesorabili e inderogabili. Questo lo accettiamo anche. E se non lo accettiamo, le situazioni non cambiano. Non perché non accetto la legge di gravità, io non cadrò, né perché non sono male intenzionato, il sasso non raggiungerà l'occhio, neppure soltanto perché sono distratto, non mi bagnerò. Che tu lo voglia o no, non cambi le leggi della fisica, neppure ne sei immune. Che tu lo voglia o no, devi subire le conseguenze delle trasgressioni alle leggi del creato. Che poi, nel cadere tu rimanga quasi illeso, nel tirare il sasso in un occhio, non produci serie conseguenze, o nella distrazione non riporti danni alla salute. Sono conseguenze che appartengono ad altre leggi. Tu dirai leggi di casualità, mentre io evoco le leggi di chi ha creato queste leggi, cioè Dio. Perché se esistono delle leggi come il codice della strada, come leggi del creato, io credo che nessuna cosa, nessun elemento fisico, nessuna casualità possa creare delle leggi. Forse arriccerai il naso, ma se anche, dico se, per stare al ragionamento qualcosa, qualche materia potesse creare delle leggi, mi chiedo come possono migliaia di leggi interagire tra di loro, Voglio dire, come possono le leggi del creato non interferire sulle leggi inderogabili inerenti al corpo umano? Forse non ci pensi, perché da quando sei nato tutto si svolge per il nostro. Bene, ma se il sole si mettesse a scaldare un poco di più, se la Terra si allontanasse solo di pochi chilometri dal sole, come andrebbero le cose? Forse non potresti raccontarlo. Come un uomo che andasse ai 200 all'ora, in una curva a gomito. Se vogliamo dare una colpa, a chi la attribuiamo? Non al sole, ma a chi conduce la macchina. La colpa l'attribuiamo solo a chi disubbidisce una regola. Qual è la colpa che si attribuisce a Dio? A quale regola è venuto a meno per poterlo condannare? Se continuiamo ostinatamente a sostenere che non crei, è allora inutile prendersela con lui. Prendiamocela con noi perché non ubbidiamo alle leggi del creato, non ti sembra? Se succedono incidenti sulle strade dobbiamo solo prendercela con noi, non con il codice stradale. E proprio insensato, soprattutto per uno che ritiene di avere del senno, cioè del discernimento. Se, invece, davanti a una strage di innocenti sulla strada ce la prendiamo con chi ha creato il codice stradale, dobbiamo provare le colpe, e fino ad oggi nessuno ha fatto, per questo si tace. Perché, allora, davanti a una strage di innocenti nella vita, alziamo il pugno contro Dio, dimostriamo che Dio ha sbagliato nel dare le sue leggi, e poi discutiamo, ma se le leggi di Dio, sia civili sia religiose, sono giuste, perché continuare ostinatamente ad avercela con Lui? Prima di discutere con Dio, pensiamo alle varie leggi della vita. Se a causa della madre sono morti 3 innocenti bambini, che colpa avevano i bambini? Nessuna. Eppure sono morti perché? Perché esiste una legge di natura. Si muore non solo per colpa propria, ma anche per colpa degli altri. Infatti, i giovani che erano in macchina, con il giovane Brillo alla guida, che colpa avevano per morire? Non erano brilli. Eppure, sono morti a causa di un incosciente. Dio che responsabilità può avere? Le stesse del codice stradale, non ti sembra? Se vuoi dare una colpa a Dio, attribuiscigli il torto di averti fatto libero. Libero di disubbidirgli. Sì. Perché Dio ti ha dato una coscienza se poi per te non è stato Dio, per ora non importa, la quale, come dice l'enciclopedia Treccani, è una regola d'azione che l'uomo trova in se stesso. Hai notato? Una regola, cioè una legge. Infatti, non puoi dire che la tua coscienza non ti rimproveri quando commetti azioni sbagliate. Ora rispondimi, trovi giusto guidare una macchina in stato di ubriachezza? Trovi giusto guidare un camion quando sei assonnato? Trovi giusto non mantenere le distanze di sicurezza sulla strada? Trovi giusto distrarti quando guidi? Sono sicuro che dirai di no, se non per convinzione, almeno per quello che vedi, sofferenza e morte. Così è di Dio. Dio ha ordinato di ubbidire alle autorità, quindi anche al codice della strada. Ha ordinato di amare il prossimo, cioè di non fargli del male. E se fai del bene al tuo prossimo nel guidare giustamente una macchina, quanto più gli farai del bene se metti in pratica le virtù cristiane. Perdonare, sopportare, occupartene quando ha bisogno. Il che vuol dire non occuparti solo di te stesso. Pensa al prossimo come pensi a te stesso ed eviterai non solo incidenti stradali, ma anche incidenti nei rapporti con Gesù Cristo e anche con il prossimo, come liti, divisioni e guerre. Pensaci. Che il codice stradale ti insegni ad ubbidire alle leggi civili, ma soprattutto ti insegni ad ubbidire alle leggi di Gesù Cristo perché ne avrai un bene ora e anche dopo la morte. Tutto da guadagnare. Gennaio 2013. Ellero.